Salve a tutti e a tutte. Ciao Emi. Ciao. Oggi per Mugarik Gave, no? Senza frontiere in basco, spero di averlo detto bene. Benissimo. Grazie. Intervistiamo Emi, che è una compagna che fa parte di Picara. Picara, per le compagne e compagni italiani che non la conoscono, è una rivista online e anche in rivista cartacea. Famosissima qui allo Stato spagnolo, ma non solo, con un referente, adesso è diventato un referente femminista in Latino America, da quello che sto leggendo lì in giro, più di 100.000 visite in un mese, parla appunto di femminismo, di varie sfaccettature, cercheremo di capire un po' il progetto con Emi, ed è fondamentalmente un giornale di base, insomma, e volevamo che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat sapessero e conoscessero un po' questo progetto. Ciao Emi, come va? Benissimo, sono contenta di parlare con voi. Ok. Ci presenti un po', insomma, che cosa fai tu e cosa fai dentro Picara? Io sono Emilia, sono giornalista e lavoro come giornalista nella televisione spagnola, la rete televisiva pubblica in Spagna. E ho iniziato a Picara come collaboratrice, diciamo, pochi mesi dopo la sua nascita, nel 2010. E da allora la mia relazione, il mio rapporto con la rivista si è ristretta fino ad ora. In questi momenti appartengo al collettivo redattore, siamo un collettivo e lavoriamo tutto orizzontale e poi scrivo opinione nel blog che la rivista ha in eldiario.es e continuo a scrivere rapporti un po' profondi e partecipo alle decisioni editoriali relative al funzionamento interno della rivista. Abbiamo un sistema di lavoro molto orizzontale, come ho già detto, e partecipativo. Usiamo le mail e pure Skype perché sono fondamentali per noi, dal momento che ognuna abita in un luogo. Ad esempio, la nostra disegnatrice è una delle nostre disegnatrice, abita a Pechino, alla Cina, quindi immagina. E poi il quartiere generale della rivista si trova qui a Bilbao, nelle Paesi Baschi. È importante dire che si paga quello che è giusto a ogni collaboratrice oppure collaboratore, perché c'è troppa precarietà nella professione periodistica e noi vogliamo fare giustizia a parte di un buon giornalismo. Quindi Picara, cioè, che cos'è? Quando nasce, come, perché nasce, cosa si ispira? Picara nasce dall'esigenza interna, si può dire, di June Fernandez. Lei è una militante femminista molto conosciuta qui all'Estato spagnolo e lei ha avuto la voglia di creare un media che avesse la prospettiva femminista e di genere, che come asse centrale. Lei era molto stanca di lavorare nei media androcentrici, come ad esempio il Paese oppure qualsiasi altro media nello Stato spagnolo, tutti avevano l'uomo come centro di referenza. Le donne non erano mai uscite come, per dirti, esperte in qualcosa, come protagonista dell'informazione, altri che erano morte. Capito? A quel tempo Picara ha cominciato ad andare, da piccolissimo medio, da quel tempo lì era un blog, poco meno che un blog, e Picara parlò di ciò di cui quasi nessuno parlava, salvando le pubblicazioni di minoranza che stavano cercando di ottenere rilevanza, però costava molto, era molto difficile arrivare alla gente. E Picara ha preso quella visibilità e adesso ha ancora di più visibilità, tanta visibilità Sì, a questo punto qua. 100.000 contatti al mese, insomma, Sì, no? però all'inizio è cominciato un progetto piccolissimo da una persona e tre amiche che hanno sognato questo medio e è possibile di andare avanti e di creare medi assolutamente alternativi e all'inizio nemmeno che c'era la pubblicità, c'era soltanto quello che pagavano socias e socios, sì, non so come si chiama. I soci. Sì. Che pagavano all'anno per ottenere questo prodotto femminista, per leggere questa informazione. E adesso abbiamo pubblicità, però è una pubblicità molto ben scelta, capito? Sì. Abbiamo pubblicità che non deve essere né multinazionali, né maschilista assolutamente né capitalista, cerchiamo che siano ad esempio, che ne so, un negozio dei libri oppure certo. un centro sociale che si vuole far conoscere la diretta, no? Ho visto che avete gli ASCO la diretta, cioè il mezzo di comunicazione alternativi, quindi insomma questo tipo di pubblicità. Senti, perché il nome Picara? Perché noi in Italia no, abbiamo l'idea, quando studiavamo qualche volta i professori ci parlavano della picaresca, della novella picaresca, no? In Spagna, eccetera. Se ci spieghi un po' come mai il nome Picara? Il nome di Picara, che in spagnolo significa persona che ha picardia, suggerisce qualcosa che è poco legato alle femministe, alle quali siamo sempre stati accusati di vivere nella rabbia, capito? È come non essere arrabbiata quando tu ti fai vedere come femminista oppure dici qualcosa di femminista, ci sono dei maschi oppure anche delle donne che ti accusano di essere arrabbiata, di essere una donna che non è felice. E noi volevamo essere una rivista allegra, anche se tante volte diciamo nelle nostre rapporti cose che non sono allegri, se vogliamo fare una rivista per sfruttare, capito? Essere picara significa persona che ha questa picardia, e quindi era un nome suggestivo, e June Fernandez, quella che ha immaginato Picara per la prima volta, e precursore insieme ad altre tre donne di questa rivista, credeva che fosse quel nome fosse giusto per la rivista. Mi piace anche a me. Alla fine, quando mi fanno questa domanda, sempre come, ma perché abbiamo deciso di chiamare Picara questo? Sì. Senti, quando parlavi di June Fernandez, no, io ho letto un po' di cose anche sulla rete internazionale dei periodisti con visione del genere, no? Un po' se ci spieghi come funziona, non so, io ero ignorante, un po' ho letto delle cose, non so, le compagne e compagni d'Italia se la conoscono, però magari ecco, dire due cose su questa rete, su come funziona, che cos'è. In questa rete, la Rete Internazionale dei Periodisti con Prospettiva del Genere, ci sono membri di Latinoamerica, Spagna e alcuni paesi europei del Mediterraneo. Si incontra ogni 2 anni di persona. E la prossima volta sarà in Uruguay nel 2019. Il resto dell'anno lavora per posta, condivide dei risorse, informazioni su campagne, conoscenze, corsi, strumenti e anche posizionamento in situazioni di emergenza. Per esempio minacce di morte contro una giornalista. È anche una rete di solidarietà tra le donne giornaliste per proteggersi e prendersi cura le une delle altre. Certo. Spesso nei già entriamo un po' nel dettaglio della rivista, quando spesso si parla di gafas moradas, no? Io lo ascolto tanto anche nelle assemblee. Ci spieghi un po' questo concetto di occhiali viola, occhiali violetti o appunto gafas moradas, che vuol dire? Implica guardare al mondo con una visione critica dal punto di vista del genere. Per genere, in italiano genero, sì, bueno, sì. Genere, genere, genere. Dice lo stesso, eh? Sì, sì. dal punto di vista del genere per vedere la disuguaglianza tra uomini e donne. Ci capisce? Sì, questa cosa la ripetete spesso in tutti gli articoli. Per esempio, se noi parliamo di l'ultima donna che è stata ammazzata qua in Spagna, di Laura Luelmo, ci sono dei uomini quasi sempre, anche delle donne, che hanno detto sulle reti sociali che non era un crimine di genere, che non era un crimine machista. Maschilista, sì. Beh, come vedere che questo qua che abbiamo davanti è un crimine machista? Cerchiamo di cambiare il genere. Certo. Voglio dire, se Laura sarebbe un uomo... Oppure se Bernardo, quello che l'ha ammazzata, sarebbe una donna, sarebbe stato lo stesso fine? Probabilmente no, sappiamo che non è così. Lei è stata violentata, lei è stata ammazzata. Sappiamo che quando scambi il genere, certo, ti rendi conto che lei è stata ammazzata perché lei è una donna. Ok. Sì, sì, praticamente, chiaramente, se fosse stato un uomo, che non succede mai, però immaginiamo che fosse stato un uomo a andare a correre di notte, che poi è questa cosa della corsa, insomma, spiego un po' per le ascoltatrici e ascoltatrici quello che è successo. Questa ragazza, Laura, che faceva, era professoressa lontana da casa, sembra che sia andata a correre, adesso non si sa, o no, comunque è andata a correre di sera da sola o stava tornando a casa, è stata avvicinata da un uomo che le ha chiesto un'informazione, poi l'ha rapita, l'ha violentata e l'ha uccisa, insomma, questa è la notizia, per cui è un po' per raccontarlo. E quindi avere queste gafas violettas vuol dire che tanto in questa informazione qua, oppure in questo successo qua, oppure se parliamo del lavoro, fa lo stesso, è uguale, facile lo stesso per una donna che per un uomo avere un lavoro, se tu hai 35 anni e io ho 35 anni e io sono incinta, ad esempio, se tu cambi il genere della persona e ti fai queste domande da un punto di vista critico, quindi hai già porti le occhiali. Okay, viola. È viola. Senti, a proposito di articoli, io vedendo un po' le cose, io ho conosciuto Picara 2 anni fa, anzi 3 anni, 4 anni fa, che venne Giune a fare una presentazione a Valencia, poi ci siamo conosciuti di nuovo l'anno scorso quando è venuta la scuola della diretta, però appunto non sapevo che il vostro primo articolo era Nigna o Nigno, no? Il primo articolo che uscì nella rete, se ci puoi parlare un po' di che cosa parlava questo articolo, insomma, come... Questo articolo che ha scritto appunto Giune Fernandez è una scommessa che la prospettiva di genere non riguarda solo i diritti delle donne, anche le persone che non si adattano a questo eteropatriarcato, capito? Certo. Rientrano nella rivista, e per quello questo è stato il primo articolo, per fare più grande la prospettiva di genere. È un rapporto su questo qua, bimbo, sarà bimbo oppure bimba, è un rapporto su persone che sono nate con genitali che non si identificano con il femminile neppure il maschile. È stato scritto, come dicevo, da Giune Fernandez, e parla del rapporto tra femminismo e movimenti LGTB. Sì. È stato un rapporto che ha aperto il dibattito sul fatto che il sesso è qualcosa di molto più vario di quello che ci è stato detto. Hanno parlato persone intersessuali che raccontano la sua esperienza di come è medicalizzato questo processo. Certo. E c'erano diverse versioni su questo articolo all'interno di questo rapporto. È stata anche una scommessa aprire la rivista con un dibattito molto potente e che mette in discussione tutto. Sì, effettivamente sì. Per quello. Deja que entre hasta el fondo de ti. Solo yo sé sacar los fantasmas que guardas allí. Deja que te enjuague los pulmones y el corazón. corazón, que limpie tu mirada de miedo y te invite a bailar esta canción. Que esta noche invito yo, deja la ventana abierta, que me escuchen en tu boca y en tus manos bien despierta. Arranqué todas las puertas para que no existan barreras, no te queda excusa alguna, somos tú y yo compañeras. Yo soy tu mejor contigo, las historias que no cuentas, la canción no es escondida, la garganta que te aprieta. Soy la fuerza que te brota del alma como una fiera, la que hila tus sentidos y te quita la careta. Tú quieras, no me temas, quiero verte levantar de la derrota, fijar la mirada al frente, llegar hasta mí sabiendo que para ti el camino es fuerte. Quiero verte alzar las manos y tu sonrisa valiente, y esas lágrimas que brotan cuando eres lo que más quieres. Llevado tu cuerpo entero y juntas vencemos la muerte, verte levantar de las derrotas, fija la mirada al frente, llegar hasta mí sabiendo que para ti el camino es fuerte. Quiero verte alzar las manos y tu sonrisa valiente, y esas lágrimas que brotan cuando eres lo que más quieres. Llevado tu cuerpo entero y juntas vencemos la muerte. Senti, invece l'articolo famosissimo, so che vi ha reso un po' famoso in tutto in questo grande mondo che sono i social network, le reti sociali, e che ha avuto un successo mediatico abbastanza grande, fu quello sull'eiaculazione femminile, no? Il grande tabù. Se ci puoi parlare un po' di quel momento lì e di che parlava quell'articolo. E con questo qua, con l'eiaculazione femminile, è stata una potente crescita della rivista. E questa è un'altra scommessa, era trattare questioni invisibili in altri media e mettere nel centro de cose che non si parla mai alle donne. Capito come il sesso non appartiene alle donne, sembra che le donne non sfruttano con il sesso, sì, quando si non godono, no, che a me piace più la parola in castigliano, però godere in italiano, di sfruttare è molto meglio, sì. Ma sembra che non possiamo godere del sesso, certo, come gli uomini. E per quello, quando tu parli di questo, è certamente rivoluzionario quando tu metti sul tavolo che esiste l'eiaculazione femminile, tu parli con queste donne, dottoresse, che sanno cosa stanno dicendo e che ti dicono: guarda, che le donne anche hanno un'eiaculazione, che vi hanno detto che no. Quindi per quello penso che sia veramente rivoluzionario per parlare di una questione che non si parla mai quando si pensa alle donne. Certo. Senti, nei vostri articoli la violenza maschilista, sia quella verbale che quella fisica, come viene approcciata? E noi come non siamo un mezzo di comunicazione quotidiano, voglio dire del giorno a giorno, certo. Il nostro ruolo non è quello di informare su casi specifici di sessismo, certo. E poi di assassinati come queste che dicevamo prima. Il nostro ruolo è quello di fornire analisi. Nel caso della Manada, che è stato uno dei più famosi qua gli ultimi due anni, è stata una ragazza qua a Pamplona, in San Fermín, una delle feste più popolari qui in Spagna, è stata violentata da un gruppo di 5 uomini. Questa storia è finita ancora terribile, perché la giustizia non ha fatto giustizia. Certo. Ha detto che lei non è stata violentata perché lei non si era difesa proprio a schiaffi. Certo, perché lei, era diventata muta, era diventata ferma, perché non si poteva muovere della paura che lei aveva. Certo. E quello è che dicono i psichiatrici che hanno parlato dal giudice. Beh, invece la giustizia ha detto che lei non è stata violentata. Anche c'era la penetrazione, anche c'erano prove che dicevano che quello era stato successo. E ci sono video, quindi voglio dire. Ci sono dei video, quel caso è stato terribile per le femministe, è stato un vero schiaffo, capito? Perché sì. Da tanti anni di lotta, vedere come continuano a credere che per fare per violentare una donna gli devono rompere la faccia, capito? Sì, sì. Che non capiscono che la nostra giustizia patriarcale non capisce cosa è la violentare. Mm. E quindi il nostro ruolo all'interno da questa storia è stata apportare dei punti di vista, l'analisi. Capito? Abbiamo, per esempio, parliamo con un avvocato, un'avvocata femminista, una sessuologa e un insegnante di autodifesa femminista, per far vedere alle nostre compagne e poi anche agli uomini, alle donne, cosa devono fare e come si possono difendere e che avvocata possono prendere. Quali sono le sue possibilità e ai uomini come comportarsi, si possono essere di aiuto, capito? Dare una mano a una donna che sta in pericolo. In questo modo tu fornisci le chiavi in modo che la società capisca perché ci troviamo di fronte a una condanna patriarcale. Certo. Capito? Sì. Diciamo che il nostro ruolo è più d'analisi che di informazione. Sì. Certo. A questo punto è qualcosa che ci guida a identificare quale violenze sono fuori fuoco, sono normalizzate o al di fuori del dibattito sociale, certo. E poi mettere questo dibattito al centro. E, ad esempio, ci sono passati magari 6 anni pure di più. Ma io ho scritto questo articolo titolato Tetas y Toros, sì. sulla violenza sessuale a San Fermín, prima che questo prima che passasse. Successe la manada, cioè. Tanti anni prima. E noi dicevamo, ok, stiamo vedendo come alla festa, come scusa, con la festa come scusa si stanno violentando delle donne, si stanno ma non solo violentando ma comportamamenti che sono sessiste, certo. Come toccare senza chiedere permesso, eccetera, no? Abbiamo detto quello e quello si è messo al centro del dibattito nei grandi media. Sì. E come apportare un'altra visione di quelle violenze abbiamo assolutamente normalizzato, anche se sono maciste. Certo. No, infatti voi parlate appunto di violenza simbolica sul corpo delle donne, grassofobia, pelofobia, grassofobia, pelofobia, il culto del corpo, temi dei vostri articoli, no? E un po' mi hai risposto in questa risposta che mi hai dato, però queste scelte sono appunto per questo, no? Sì. Noi evitiamo la vittimizzazione delle donne e concentriamo l'attenzione sulle strategie collettive. E poi appunto la violenza simbolica Picara è cresciuta e i collaboratori sono sempre più diversi e ognuno ha le sue proposte, le sue preoccupazioni, approcci e temi, e quindi questo la fa crescere tanto. E la violenza simbolica è molto importante perché è questa che c'è nella base della piramide, capito? Questo arricchisce molto la rivista, parlare di cose di cui nessuno sta parlando, e le pone all'ordine del giorno e fa crescere le richieste e raggiungere obiettivi dei diritti sociali. Sì. Se una donna sta leggendo che una cosa che lei ha vissuto, identifica quella violenza. Le questioni chiave sono questioni come la violenza simbolica per noi. Certo. Tu pensi che arrivate solo alle militanti o anche alle militanti o femministe radicali, vari tipi di femminismo, o anche oltre? Beh, non lo so, stiamo tenendo sempre più persone molto diverse. Penso che all'interno della militanza femminista ci siano la maggior parte dei nostri lettori. Ma non credo che il nostro pubblico finisca lì. Certo. Direi che molte persone affrontano il femminismo oppure conoscono il femminismo attraverso articoli che hanno condiviso i loro amici nelle reti sociali e che hanno dato loro la curiosità su questi temi. Certo. Cioè, ci sono delle ragazze giovanissime, dico magari 18 anni, 19 anni, che si avvicinano a noi nelle nostre charlas. Sì, no, dibattiti, nei nostri dibattiti. Ho dimenticato tante parole in italiano. Io guarda che anch'io quando torno a te charlas o charrada in catalano mi viene di dire, non mi viene di dire dibattito, anche perché dibattito mi suona di cosa molto forte, no? Invece è più tranquilla, cioè, però è dibattito, insomma. E loro, queste ragazze che ti dico, si avvicinano e ci fanno sapere che loro sono diventate femministe perché hanno letto delle cose che gli ha fatto questa curiosità di cercare ancora di più e conoscere un po' più sul movimento femminista. Oppure ho cominciato a leggere a Simone de Beauvoir perché ho letto un articolo vostro e mi ha fatto molta curiosità, e quello è bellissimo. Sì. Senti, parlando di un'altra cosa che mi ha colpito quest'anno, come succede anche in Italia, insomma, in tutte le lingue, no? ci sono due o tre neologismi che vengono inseriti in questo periodo, a fine dicembre, nei vocabolari. Quest'anno l'Accademia della Lingua Catalana ha inserito la parola sororitat, no? Sorellanza in italiano. Non lo so se gli altri vocabolari hanno fatto qualcosa del genere. Però, appunto, sorellanza in italiano mi suona un po' strano. Invece ci spieghi un po' cosa vuol dire sororitat, questa parola, e cosa vuol dire per il femminismo? Qui ricorderò a Marcella Lagarde, una grandissima autora femminista. Per lei sororità è una dimensione etica, ma anche politica e pratica del femminismo contemporaneo. È un'esperienza delle donne che conduce alla ricerca di relazioni positive e alleanze esistenziale e politica, corpo a corpo, soggettività alla soggettività con altre donne, per contribuire con azioni specifiche all'eliminazione sociale di tutte le forme di oppressione e di sostegno reciproco, per raggiungere il potere generico di tutti, l'emancipazione vitale di ogni donna. Questo significa semplicemente essere sorelle. Facile, in effetti. Questa era la prima parte dell'intervista a Picara, la seconda parte lunedì prossimo. Senza Frontiere 22, Mugak Gabe in basco, Il pezzo che avete ascoltato è interpretato dalla Mare e Eva Sierra, si intitola Juntas, un pezzo acustico. E Senza Frontiere, questa trasmissione la potete riascoltare in replica mercoledì alle 17.30 e giovedì alle 14.30. I podcast di Senza Frontiere, così come di tutte le trasmissioni di Radio Wombat, li potete trovare alla pagina apposita sul sito della radio wombat.noblogs.org. Ciao ciao!